Perfetto Giorno di Simone Spezia. A Brescia muore una bambina per la malaria. La malattia sarebbe stata contratta in Italia. Corea, Putin parla di rischio catastrofe globale, forse spostati dei missili sulla costa. Vaccini e scontro tra Veneto e governo, mentre corsa ai certificati prima dell'iscrizione a scuola. Secondo l'Istat accelera l'economia, ripartono gli investimenti, rallenta la crescita dei consumi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e siamo sempre in diretta, come sapete, anche sulla nostra pagina Facebook, in diretta video, la pagina Facebook di Effetto Giorno e la pagina Facebook di Radio 24. Siamo qua, leggiamo anche là i vostri messaggi se ci volete scrivere. In apertura dunque la cronaca con la vicenda che arriva da Brescia e questo caso di malaria. Ha contratto la malaria in Italia la bambina di 4 anni deceduta a Brescia dopo essere stata ricoverata d'urgenza trasferita da Trento. La piccola è morta nella notte tra domenica e lunedì. I medici cercano una possibile spiegazione visto che la bambina non è mai stata all'estero in zone a rischio e visto che la zanzara Anopheles non è presente in Italia. Paolo Bordon, direttore sanitario dell'ospedale Santa Chiara di Trento. È stata ricoverata da noi, in precedenza aveva avuto un ricovero all'ospedale di Portogruaro in Veneto, dove era andata in vacanza a Bibione. Il 2 settembre è ritornata in condizioni gravissime e lì una nostra biologa ha scoperto che aveva la malaria. Noi non abbiamo la zanzara che può veicolare, quindi le ipotesi possono essere che c'è la famosa zanzara nella valigia del turista, no? Che ho un contatto con qualche portatore, magari sano, ma un contatto di sangue. Non ci può essere il contagio dando la mano, eccetera, ma solo con un vettore, no? È successo contraendola sicuramente sul suolo nostro. Trentino e Veneto, ecco. Se fosse confermato, sarebbe il primo caso in 30 anni di malaria autoctona in Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Immagino che su questo abbiate parecchie domande, parecchi interrogativi. Torneremo a parlare di questo tema più avanti nel corso del nostro giro per l'Italia e lo faremo con la direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. Così come parleremo di vaccini. Al centro della scena c'è lo scontro tra la Regione Veneto e il governo. Sull'obbligo dei vaccini a scuola è scontro fra Veneto e governo. Dopo aver presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro le norme nazionali, la regione guidata dal leghista Luca Zaia ha deciso una moratoria. Ci sarà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 per mettersi in regola presentando la documentazione richiesta per iscrivere a scuola i bambini da 0 a 6 anni. Il Veneto sarà responsabile in caso di epidemie e la dura replica che arriva dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Nel resto d'Italia, intanto, resta fissata per l'11 settembre la prima scadenza per la presentazione dei documenti sulle vaccinazioni obbligatorie, anche in Lombardia, dove ieri la regione ha deciso di congelare la deroga annunciata nei giorni scorsi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come si diceva, di questo tema torneremo a parlare più avanti in Effetto Giorno, ma fatemi cogliere l'occasione per segnalarvi due cose. La prima è che è in corso un viaggio di Radio 24 su questo nuovo decreto vaccini con l'avvio delle scuole in onda tutte le mattine nel GR delle 7 e poi in Effetto Notte, e vi voglio anche dire che nella giornata di venerdì dedicheremo sia Roberta Giordano che io una parte della trasmissione a rispondere alle vostre domande, quindi se volete inviarci Effetto Giorno @radio24.it. Chiaramente stiamo parlando non di domande di carattere politico, per così dire, ma domande di carattere pratico. Dovete iscrivere i figli a scuola, non sapete come fare, come muovervi, quali sono le vostre domande, potete inviarcele là e cercheremo di rispondere almeno ad una parte, insomma, per quanto il tempo che abbiamo ce lo consente. Veniamo alle vicende della Corea del Nord. Le questioni di oggi dal punto di vista della cronaca ci raccontano che delle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, il quale dice che nuove sanzioni contro la Corea sarebbero futili e inefficaci, e visto che Pyongyang ha armi atomiche, un conflitto potrebbe portare ad una catastrofe globale. Insistere sull'isteria militare per risolvere il problema, dice Putin, è senza senso, un vicolo cieco. Intanto la stessa Corea del Nord starebbe trasportando verso la costa occidentale un razzo che sembrerebbe essere un missile balistico intercontinentale. Lo riporta, citando una fonte anonima, l'Asia Business Daily, che è una testata sudcoreana. Siamo in linea con Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa. Gianandrea, ciao, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno. Allora Gianandrea, ma di che arsenale davvero dispone Kim? Ma se noi parliamo di armi atomiche, le stime variano dalla dozzina ai 30, addirittura qualcuno dice addirittura 60 ordigni già pronti. E in realtà, se anche fossero solo 15 o 20, insomma, la Corea del Nord è una potenza nucleare e ha già testato missili. Noi sappiamo che ha centinaia di missili in grado di raggiungere a breve raggio il territorio sudcoreano, che peraltro è a tiro, la capitale Seul, anche di centinaia di cannoni e razzi pesanti nordcoreani nascosti in caverna lungo il confine del 38esimo parallelo e caricati con munizioni chimiche, il che vuol dire che in caso di attacco contro la Corea del Nord potrebbero colpire con migliaia di proiettili la capitale Seul, che con i dintorni ha quasi 20 milioni di abitanti, con questi aggressivi chimici. Sappiamo che ha dei razzi, dei missili balistici a medio raggio che possono raggiungere il Giappone, possono raggiungere Guam, la base americana, o altre aree del Pacifico, e ha un numero ancora limitato di missili balistici intercontinentali che possono raggiungere gli Stati Uniti. Per questo una guerra contro la Corea del Nord è impossibile combatterla, perché come si è sempre fatto, chi si dota delle armi atomiche lo fa perché per impedire a chiunque altro di attaccarlo, e la deterrenza rimane il vero senso degli armamenti nucleari. Ti ringrazio, grazie a Gianandrea Gagliani per questa tua rapida analisi, direttore di analisi difesa. E noi siamo alla pagina economica, che parte dai dati dell'Istat che sembrano confermare un buon andamento dell'economia italiana. Una nota mensile, quella dell'Istituto di Statistica, che guarda con ottimismo ai prossimi mesi. Il relativo indice, spiegano dall'Istat, mantiene un'intonazione positiva, segnando un rafforzamento delle prospettive di crescita, in particolare in un quadro internazionale caratterizzato dal segno più dell'economia statunitense e dell'area euro. L'economia italiana accelera, sostenuta da una crescita diffusa tra i settori produttivi e dall'aumento dell'occupazione. L'Istat ricorda inoltre che nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo ha segnato un aumento dello 0,4% sul trimestre precedente, registrando la crescita tendenziale più alta degli ultimi 6 anni, più 1,5% rispetto al secondo trimestre del 2016. In crescita il lavoro autonomo, bene i consumi, stesso trend positivo per gli investimenti, che dopo l'interruzione del primo trimestre dell'anno hanno ripreso la fase positiva iniziata nel terzo trimestre di 3 anni fa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo ad Alitalia, perché si sfila Air France. Nessun interesse per Alitalia. Air France snobba la vendita della compagnia aerea. A illustrare la linea dei cugini d'Oltralpe e l'amministratore delegato Jean-Marc Janaillac. Non siamo candidati, spiega in un'intervista, nel recupero di compagnie che sono in situazioni complicate di ristrutturazione. Nessun interesse per gli stessi motivi, neppure per Air Berlin, altra società in difficoltà di Etihad. La vendita di Alitalia entra questo mese nella fase decisiva. Il 15 settembre scade infatti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il 2 ottobre è l'ultimo giorno per le offerte vincolanti, poi si aprirà la fase di negoziazione, che scadrà il 5 novembre, e allora si dovrebbe conoscere il nome del nuovo proprietario di Alitalia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ricavi meno 5%, utile netto meno 3% e la Lego taglia 1.400 posti di lavoro sui 18.200 addetti che ha. C'è stata una frenata nei mercati dell'Europa e degli Stati Uniti, e nonostante la decisa crescita di quello cinese, appunto, si è deciso un taglio dell'8% della forza lavoro. Siamo al caso Regeni, e a questo è dedicata l'analisi di oggi di Daniele Biacchessi. La battaglia per la verità sulla morte di Giulio Regeni pare lunga ed estenuante, soprattutto dopo l'informativa del ministro degli esteri Alfano presso le commissioni riunite a Montecitorio, in seguito alla decisione di rimandare al Cairo il nostro ambasciatore. Il governo manda a dire che l'omicidio di Giulio Regeni è una grave ferita che ha inferto un duro colpo ai rapporti tra Roma e il Cairo, ma l'Egitto è un partner di cui l'Italia non può fare a meno, un paese chiave e strategico nell'area del Mediterraneo, con il quale è impossibile non avere rapporti politici, diplomatici ed economici. In sostanza l'Italia ricerca la verità, ma fino ad un certo punto, perché non si devono incrinare rapporti con un paese amico. È solo realpolitik? I poliziotti dello SCO, il Servizio Centrale Operativo e i Carabinieri del ROS stanno ultimando la traduzione degli atti arrivati dalla Procura Generale del Cairo. Gli inquirenti italiani sono anche in possesso dei nominativi dei tre agenti che sicuramente sanno qualcosa. Sono il colonnello Ozan Elmi, il colonnello Sharif Mahdi Ibrahim Abdal e il colonnello Mahmoud Endi. La procura di Roma ha chiesto l'autorizzazione a interrogarli direttamente oppure di partecipare alle loro audizioni, ricevendo però in cambio un secco no dalle autorità egiziane. Se si dovesse giudicare l'avanzamento dell'inchiesta, non siamo dunque ad una svolta e probabilmente sarà così anche in futuro. Così dunque l'analisi di Daniele Biacressi sul caso di Giulio Regeni. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione spostandoci a Venezia per la mostra del cinema. Siamo in linea con la nostra inviata Marta Cagnola. No, non ce l'abbiamo la nostra Marta Cagnola, vediamo se riusciamo a rintracciarla in qualche modo. Intanto vi do una notizia di sport, o meglio di sport e di potere sportivo, perché la notizia di questa mattina è che Andrea Agnelli è il nuovo presidente del European Club Association. L'elezione è avvenuta a Ginevra, dove è in corso l'assemblea dei club europei. Il presidente della Juventus succede a Karl-Heinz Rummenigge al vertice dell'associazione dalla sua fondazione nel 2008. Ora noi andremo a fermarci a sentire che cosa succede sulle strade, ma e andremo anche a parlare tanto della vicenda della malaria quanto dei vaccini. A proposito dei vaccini, fatevi solamente dire una cosa, ci scrive un ascoltatore: basta parlare di questo argomento, i genitori che hanno figli a scuola sono ormai tutti informati da settimane, e questo in realtà è molto relativo, perché ci arrivano ce ne arriveranno altre, come vi abbiamo detto venerdì ne parleremo, potete scrivere a effetto giorno @radio24.it, ne arrivano a noi, ne arriva al Sole 24 Ore, a tutte le redazioni, così come al Ministero, al numero che lo ricordiamo, il numero per le informazioni è il 1500, il 1500, arrivano tante richieste di chiarimento appunto di chi deve iscrivere i figli a scuola. Ora siamo in grado di collegarci con Venezia prima di andare a sentire cosa succede sulle strade. Sì, abbiamo Marta Cagnola. Marta, ciao, buongiorno. Eccoci Simone, beh, dobbiamo cominciare a parlare di Boo, perché dopo tanti applausi per i film concorsi sono arrivati anche i Boo, e sono arrivati per il film di Darren Aronofsky con Javier Bardem e Jennifer Lawrence, Mother. Allora, demoniaco, horror, è una coppia composta da uno scrittore e sua moglie che vivono in una casa bellissima, una casa di campagna che dovrebbe essere un paradiso ma diventa un inferno. Grottesco, qualcuno ha applaudito, altri appunto hanno fatto Boo, un visual potentissimo. Il grottesco può anche essere molto divertente. Jennifer Lawrence non è al massimo, sarà sicuramente un blockbuster, e il fatto di dividere potrebbe essere una ragione di successo. A proposito di Boo e di fischi, ci sono state anche le prime bizze sul red carpet. Le ha fatte Frances McDormand, che potrebbe essere una perfetta coppavolpi per tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ieri sera ha percorso il tappeto rosso correndo, non si è fermata, i fotografi hanno protestato e lei gli ha fatto un gestaccio. E va bene. Chiuderei invece con un film italiano, In Orizzonti, grande film d'animazione napoletano. Gatta Cenerentola, firmato da Ivan Cappiello, Dario Sansone, Marino Guarnieri, Alessandro Rack, con le voci di Massimiliano Gallo, Maria Pia Calzone e Alessandro Gassman, che ci ha raccontato che questo film è il segno della grande vivacità di Napoli. Sentiamolo. È la città che io ho scoprto bene solo l'anno scorso durante le riprese dei Bastardi Pizzo Falcone, che peraltro con Massimiliano riprenderemo. Io sono arrivato alla conclusione che Napoli sia in questo momento la città culturalmente più vivace, decisamente più vivace nel nostro paese, perché Napoli è una città da sempre abituata a superare i problemi, le difficoltà, le avversità, e quindi è la città più preparata ad affrontare il momento che il paese sta vivendo. Quindi è una città dalla quale in questo momento chi invece è nuovo a vivere difficoltà come ad esempio la mia città dovrebbe imparare. Napoli sta avendo da sempre una reazione, ma Roma ancora non è, ad esempio in questo momento, altrettanto reattiva, lo dico da romano molto abbacchiato in questo momento. E così abbiamo dato la notizia anche ai fan dei Bastardi di Pizzo Falcone, serie che quindi tornerà in televisione. A te Simone. E grazie dunque a Marta Cagnola, traffico e poi parleremo di malaria e di vaccini. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della bambina che è morta per la malaria a Brescia, ci siamo occupati di Corea, di vaccini, dei dati dell'Istat sull'economia, di Alitalia e anche della mostra del cinema di Venezia, oltre che del caso Regeni. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e siamo sempre anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/radio24 oppure la pagina Facebook di Effetto Giorno, e potete continuare a scriverci al 349-238-6666 via SMS o via WhatsApp. Oh, qua una raccomandazione. Allora, non è che abbiamo una redazione enorme, quindi è inutile che mandate i messaggi audio su WhatsApp, perché non riusciamo a sentirli, non riusciamo a mandarli in onda. Sforzatevi un po', ditini sulla tastiera, che sia virtuale o reale, e mandateci un messaggio scritto, così lo posso leggere ed eventualmente rispondervi. Iniziamo dalla vicenda di Brescia, che in realtà è una vicenda che avrebbe origine a Bibione, dove era in vacanza questa bambina di 4 anni, che in realtà era originaria di Trento, dove è stata inizialmente ricoverata. Poi una persona nell'ospedale di Trento ha avuto l'intuizione che si potesse trattare di malaria dopo che la bambina è stata portata un paio di volte in ospedale ed è stata portata a Brescia, dove c'era un reparto specializzato, e purtroppo questa piccola di 4 anni non ce l'ha fatta. Siamo in linea con Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Rezza, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, è un caso rarissimo, mi sembra di aver capito. Ma sì, questi sono casi rarissimi, noi li definiamo, sono casi autoctoni, nel senso che sono acquisiti in Italia, evidentemente, perché la bambina che non si è mossa dall'Italia, e noi li definiamo anche come criptici, cioè sono criptici perché non si riesce spesso a capire come sia avvenuta la trasmissione. Perché? Perché questo vettore, il vettore della malaria, cioè la zanzara anofele, che può trasmettere diversi tipi di malaria, la zanzara anofele italiana, che è presente in alcune aree della penisola, non è competente, cioè non trasmette efficacemente, efficientemente questo tipo di plasmodio, cioè di agente della malaria così aggressivo. Quindi la domanda è: come fa ad essersi infettata questa bambina? Perché in questi casi o arriva la zanzara direttamente all'Africa, in genere quando è successo rarissimamente, è successo nelle zone vicine agli aeroporti internazionali, no? Sì. O uno fa una trasfusione, ma adesso figuri, si controlla, a parte che questa bambina non l'ha fatto, il sangue viene controllato, dopo se uno viene chiaramente dalla zona di rischio non dura il sangue in quel periodo, per cui è estremamente difficile andare a capire che cosa effettivamente sia successo. Vengono riportate delle notizie in questi minuti, professor Rezza, secondo la quale nel reparto ospedaliero c'erano altri due bimbi infetti. Le risulta oppure no? È quello che è stato riportato anche a me, però diciamo non ne ho, anche se non ne ho una testimonianza diretta. Anche in questo caso non è possibile che sia stata una zanzara nostra, diciamo, a trasmettere l'infezione, sia perché non c'era stato il tempo, perché la zanzara non fa da vettore passivo, no? Deve essere, permettere la maturazione dell'agente della malaria prima di riuscire a trasmetterla. Sì. E anche perché la nostra zanzara, ripeto, non è in grado di Allora, in questo caso, come è fatto, come può essere avvenuto uno scambio di sangue, può essere arrivata una zanzara da qualche altra parte, sono tutte ipotesi aperte. In questo momento, sinceramente, io non me la sentirei di avanzare un'ipotesi piuttosto di un'altra. Va fatta un'indagine molto accurata, questo sicuramente sia epidemiologica che di tipo, diciamo, entomologico, cioè sugli insetti presenti nella zona, però io credo che purtroppo difficilmente si arriverà ad una conclusione definitiva. Le giro un paio di domande di ascoltatori. Ad una mi sembra che abbia già risposto. Un ascoltatore dice: può darsi che ci fosse una persona infetta, perché ricordiamo, non è che la malaria è sempre mortale, anzi, può darsi che ci fosse una persona infetta e una zanzara ha succhiato il sangue di questa e ha praticamente preso il virus e l'ha portato su questa bambina pungendola. Non così, non è possibile, perché non può essere una zanzara nostra, diciamo autoctona, a trasmetterla. Quindi deve essere una zanzara, per così dire, immigrata, per così dire. Senta una cosa, a proposito di questo, molti ascoltatori, ma non solo, anche esponenti politici, penso poco fa Michela Biancofiore, Grimoldi della Lega, eccetera, dicono colpa degli sbarchi, perché sono gli immigrati che portano la malaria da noi. Riusciamo a dare un'idea se è possibile una cosa di questo genere oppure no? Che cosa, mi perdoni se mi vuoi ripetere? No, dicono sono gli immigrati che portano la malaria da noi. Che cosa allora, risponde l'infettivologo, diciamo che a questa? Stiamo parlando di casi rarissimi, cioè nel senso che non è che una persona arriva infetta e immediatamente arriva alla trasmissione. Con questo tipo di malaria è difficilissimo che possa avvenire, perché chiaramente o deve arrivare la zanzara infetta o, come dicevo prima, deve avvenire uno scambio di sangue, altrimenti non è possibile. Con tipi di malaria meno grave qualche volta si è avuto questo tipo di trasmissione, ma certamente è raro che possa dar vita più a cioè più deve di essere caso. Un tipo di malaria, per riassumere professore, deve essere più quel tipo di malaria più lieve che la nostra zanzara, come dire, che la nostra zanzara anofele è in grado di trasmettere. È successo in Grecia nel Peloponneso, diciamo un paio d'anni fa, che ci fossero diversi casi, noi diciamo autoctoni, cioè effettivamente acquisiti in Grecia. In Italia si è trattato di un evento estremamente raro, quei pochi casi che si sono verificati nel corso degli anni, innanzitutto non erano gravi e per secondo non hanno dato vita dopo a più di un caso. Quindi da questo punto di vista, ecco, diciamo, questa notizia è estremamente drammatica, un caso drammatico, difficilissimo fare la diagnosi, sono stati anche bravi a farla, purtroppo. Quando la bambina stava in condizioni ormai gravissime, ma era difficilissimo, perché uno non può pensare che una bambina che non si è mossa dall'Italia e sviluppi un febbrone abbia la malaria. Certo. È veramente difficile, ecco. La notizia, diciamo, la semi notizia buona è quella che questo non ci fa presupporre che ci siano più casi, è estremamente improbabile che si verificano quei casi. La ringrazio, grazie a Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. E saluto, visto che stiamo parlando di medicina, torniamo a parlare di vaccini, ma non sul fronte della polemica politica, ma proprio sul fronte pratico. Voglio salutare Vito Novielli, che è il presidente di Federpharma Puglia. Cos'è Federpharma? È l'associazione che raccoglie le farmacie. Novielli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Come già dicevamo ai nostri ascoltatori, innanzitutto è in corso un viaggio di Radio 24 che si sta occupando dei vaccini, cercando di darvi tutte le informazioni, anche pratiche, possibili. Nel frattempo c'è un po' di confusione in una serie di regioni, grandi file alle ASL per ottenere i certificati, difficoltà di comprensione per quali autocertificazioni, come farle e via dicendo. E la Puglia si è mossa in un modo, secondo noi, interessante, perché ha fatto la regione un accordo con voi per cui i certificati li emettete direttamente in farmacia, no? È proprio così. Noi abbiamo avuto la possibilità, grazie al fatto che 1200 farmacie della regione Puglia sono tutte collegate alla rete RUPAR della regione, hanno avuto la possibilità di accedere al portale Java, che raccoglie l'anagrafe vaccinale dei cittadini pugliesi, e per il tramite del codice fiscale abbiamo in farmacia la possibilità di accedere alla verifica delle vaccinazioni obbligatorie effettuate dal singolo cittadino e sulla base di questo, nel caso l'interrogazione abbia esito positivo, emettere l'attestazione che viene appunto stampata con una intestazione che è quella della Regione Puglia e una firma apposta che è quella del direttore del Dipartimento di Igiene del distretto in cui la farmacia sì. ha sede. Il che consente che appunto di snellire tutto quanto, aiuta i genitori evidentemente, e le ASL non sono troppo, sono decongestionate. Dà la possibilità, tenga conto che tutta questa attività viene svolta praticamente nei 260 comuni della Puglia e nelle 1200 sedi farmaceutiche, quindi certo. Insomma, con una grande capacità. Lei ne ha già nella sua farmacia, perché immagino che sia un farmacista anche lei. Nella mia farmacia, sì, io sono in un paese, è andata, diciamo che la gente si è rivolta da subito, appena ha visto questo cartello e la notizia è circolata, è arrivata in farmacia e davvero c'era qualche mamma che non credeva alla semplicità con cui si potesse accedere a questa attestazione e risolveva così tutti i suoi problemi. Devo dire che abbiamo lavorato di concerto con la struttura regionale, che io ringrazio, e così come ringrazio tutti i miei colleghi che hanno dato pronta disponibilità al servizio. Voglio giusto ricordare che tutto questo avviene in una maniera gratuita, senza alcun onere per il cittadino e in questo caso anche per la parte pubblica. Grazie Vito Novielli, presidente di Federpharma Puglia. Ci chiede un ascoltatore: perché non inviare i medici a vaccinare direttamente nelle scuole come avveniva in passato? Per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché meglio di un metodo coercitivo c'è un brutale come quello, c'è un metodo diverso che è questo qua. In secondo luogo perché, me lo faccia dire, vista la quantità di credenze antiscientifiche che si stanno diffondendo, si porrebbe forse anche un problema di ordine pubblico. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e torneremo a parlare di immigrazione, perché c'è una questione piuttosto interessante che è questa. Come sapete, il flusso dalla Libia si è parzialmente interrotto, in gran parte interrotto nelle ultime settimane, con tanti dubbi anche sul come questo sia avvenuto, perché si sono diffuse delle informazioni ancora non verificate che siano intervenuti anche dei militari italiani o degli italiani proprio per bloccare gli sbarchi. Nel frattempo il ministro dell'interno Minniti è andato in Algeria, perché dall'Algeria sono partiti i barconi verso la Sardegna che è un po' al collasso da questo punto di vista. Ne parleremo col presidente della regione a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. A Brescia, come vi abbiamo raccontato, è morta una bambina per la malaria, malattia che sarebbe stata contratta in Italia. La Corea, Putin parla di rischio di catastrofe globale, forse sono stati spostati dei missili sulla costa. Sui vaccini scontro tra Veneto e governo, mentre corsa ai certificati prima delle iscrizioni a scuola. Secondo l'Istat accelera l'economia, ripartono gli investimenti, rallenta un pochino la crescita dei consumi. E vi do un'ultima notizia che viene battuta in questi minuti dalle agenzie, anzi due notizie sono. La prima arriva dalla Siria, dove i governativi siriani hanno rotto l'assedio di Deir az-Zor, è una città importante perché è l'ultimo bastione dell'ISIS nell'est della Siria. La città era accerchiata dagli jihadisti da quasi 3 anni. Infine, un'altra notizia invece, che in questo caso arriva dalla Gran Bretagna: 4 militari dell'esercito britannico che sarebbero legati a un gruppo neonazista sono stati arrestati per preparazione di atti di terrorismo. Di questo ha dato notizia lo stesso Ministero della Difesa di Londra. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per l'ultima parte della trasmissione, sempre il 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook sulla quale andiamo in diretta video e sulla quale ci potete anche scrivere. E insomma, c'è un'ascoltatrice che via sms ci dice, Maria, dice: i barconi dall'Algeria vanno in Sardegna ma non in Corsica. Lei Spezia ha idea del perché? E lo sa perché? Perché passano 300 chilometri, che non mi ricordo nemmeno quanto faccio in miglia marine, ma sono 300 chilometri e la Corsica è più a nord della Sardegna. Insomma, abbiamo una persona che ce lo può confermare se non ci credesse, che è il presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru. Buongiorno, benvenuto Pigliaru. Buongiorno, grazie. Eccoci qua. Allora, voi avete avuto un discreto problema da questo punto di vista, perché nel momento nel quale si è interrotta la tratta libica, per così dire, dei migranti, i barconi che partivano dalla Libia e arrivavano prevalentemente in Sicilia, il problema ve lo siete trovati voi con i barconi che arrivavano dall'Algeria. Noi qualche volta ne abbiamo parlato qua in trasmissione, però leggevo da qualche parte, lei diceva che il problema è diventato esplosivo. Ma per la verità ne abbiamo parlato nel problema anche prima della vicenda virtuosa del lavoro che Minniti sta facendo sulla Libia, perché era evidente che c'era un canale che si stava rinforzando pericolosamente direttamente dall'Algeria ed è un canale totalmente sotto alcun controllo, quindi che sta proprio sfuggendo ad ogni ragionamento di programmazione. Avevamo, mi pare, 160 migranti arrivati nel 2014, nel 2016, quindi indipendentemente da quello che poi è successo in Libia, erano già 1100, quindi da 160 a 1100, quest'anno siamo in fondo ancora all'inizio di settembre, sono già oltre 800, quindi un canale certamente pericoloso, e a maggior ragione nel momento in cui si interviene sulla Libia per dare un ordine a questa situazione complessa che va assolutamente governata, è molto molto importante essere consapevoli che si è formato in questi anni un canale che deve essere adesso invece smontato. Sì, lo snodo è interessante perché, come si diceva già in apertura di trasmissione, il ministro dell'interno Minniti è andato proprio in Algeria proprio per bloccare queste nuove rotte dall'Africa. E proprio ha cercato anche una collaborazione tra gli 007 italiani e quelli algerini, una collaborazione generale che consenta appunto di fermare questo flusso. Immagino che questo abbia generato, Pigliaru, per voi anche dei problemi in termini di accoglienza. Noi spesso siamo andati anche nelle singole città, nei singoli luoghi, nei singoli paesi che si sono trovati a gestire tutto questo, e i problemi ci sono stati anche con episodi di intolleranza, no? Certo, dunque intanto noi abbiamo segnalato il problema dell'Algeria naturalmente già da tempo, in particolare il giugno scorso eravamo stati ricevuti da Minniti, che aveva condiviso immediatamente la nostra preoccupazione, che noi abbiamo poi riconfermato nei giorni scorsi, e sono molto molto soddisfatto che il ministro sia già intervenuto in Algeria nel modo credo giusto, cioè proponendo la massima collaborazione con le autorità algerine per evitare che appunto poi i criminali facciano il loro sporchissimo lavoro sulla pelle degli migranti, quindi questo è il punto. Certamente il nostro problema è molto semplicemente questo: la Sardegna è una terra molto accogliente, io credo che sia stata anche molto tollerante a fronte di flussi di migranti che sono aumentati enormemente, non solo in Sardegna naturalmente, in questi anni c'è stata molta tolleranza e certo c'è stato anche qualche episodio di intolleranza, ma credo che per evitare che la tolleranza poi si trasformi in intolleranza è molto importante avere regole chiare. Allora, noi abbiamo detto e continuiamo a dire che siamo pronti a fare la nostra parte. La nostra parte è un numeretto magico che si chiama 2,96%, cioè in proporzione alla nostra popolazione, noi siamo pronti a farci carico circa del 3% dei migranti. Quello che stiamo facendo con risorse nostre, con molta attenzione, con molta collaborazione della popolazione. È ovvio che dobbiamo stare dentro questa regola. Qualunque cosa violi questa semplice regola che definisce il nostro ruolo in un contesto di equità rispetto alle altre regioni, se violiamo questa regola poi diventa più difficile bloccare gesti di intolleranza. Quindi regole chiare, io credo che potremo gestire questi flussi con molta seduta. Sì, dal punto di vista della stretta cronaca, ci ricordava un ascoltatore, dice, a Monastir è stato dato fuoco al centro d'accoglienza, sì, lo ricordiamo e ne abbiamo parlato, poi il 27 luglio a Dorgali, durante la notte, no, è stato piazzato un ordigno con polvere da cava davanti alla sede di un centro dove dormivano 64 migranti, quindi la situazione si stava facendo discretamente certo, tesa. Sono pericoli che conosciamo bene in tutta Italia, sì. Abbiamo bisogno di gestirli, appunto, rassicurando le persone che le regole sono molto chiare. Pigliaro, si faccia fare una domanda, che è la domanda che ci stanno facendo un po' tutti gli ascoltatori, ed è questa: quando abbiamo parlato delle distanze, no, tra l'Algeria e la Sardegna rispetto all'Algeria e la Corsica, gli ascoltatori dicono no, non dite scemenze, non dite cretinate, sono un po' più indelicati di come gliela sto mettendo io, però dicono in realtà in Corsica non ci vanno perché i francesi li respingono. Lei che cosa dice? Beh, io penso che abbia ragione lei nella sua risposta di poco fa. Per migrazioni di questo tipo ogni chilometro di mare in più conta moltissimo. Non a caso si va a Lampedusa e non a caso dall'Algeria si punta alla terra europea più vicina. E la terra europea più vicina è la Sardegna, che è anche più lunghetta, no? Perché stiamo parlando di centinaia di chilometri. La Corsica è molto molto più lontana, quindi... Come posso dire, i criminali che organizzano e tra l'altro molto razionali, mi scusi, fanno i calcoli con molta attenzione. Mi scusi, e tra l'altro chi ha avuto occasione di navigare anche solo per piacere in quelle zone sa benissimo che quel tratto di mare, il tratto dico tra la Sardegna e la Corsica, non è esattamente quello semplice. Quello ovest, cioè il maestrale, quindi insomma sì, un po' un problema. Comunque sono centinaia di chilometri in più di navigazione. Ripeto, chi organizza queste rotte, i criminali che organizzano queste rotte valutano ogni euro che spendono, ogni dollaro che spendono, e quindi ovviamente... approdano nella spiaggia o nella costa a loro più vicina per ovvissimi motivi economici. Questi sono mossi da motivi economici. Ecco, per rimanere in termini geografici, agli ascoltatori che ci dicono no, ma l'Algeria è anche una parte che è più vicina alla Spagna, certamente, ma il luogo di partenza è quello, diciamo, basta guardare effettivamente, basta guardare una normale mappa geografica per capire che c'è una forte e chiara vicinanza della Sardegna all'Algeria e alla Tunisia, sono vicinissime, sì. E anche questo è il motivo per cui noi siamo preoccupati e chiediamo che questo canale particolarmente illegale sia immediatamente... Sì. Sì, a chi fa ancora discussione di geografia, mi spiace non essere in televisione, non potervi far vedere mappa. L'Algeria ha una costa enorme e quindi sì, è vero, ha una parte della costa che è molto vicina alla Spagna e una parte della costa che è molto vicina alla Sardegna. Grazie al Presidente della Regione Sardegna per essere stato con noi, buona giornata. Anche a lei, a tutti, grazie. Traffico.